Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, bentornate, bentornati alla finestra sul cortile. Le pari opportunità. Se ne parla tanto, ma in America, a quanto pare, cominciano già dalla culla, anzi dalla provetta. Nelle cliniche della fecondazione assistita, dove è possibile ormai programmare il sesso del nascituro, la maggioranza delle coppie, a quanto sembra, sceglie di mettere al mondo una femminuccia. Perché donna è bello. Donna è meglio in tutti i sensi. Il futuro che attende le quote rosa dei reparti maternità, almeno negli Stati Uniti, è un futuro, se non tutto roseo, probabilmente migliore di quello dei neonati azzurri. Lo dicono le statistiche sull'economia, sul mercato del lavoro, sulle università, dove le donne stanno bagnando il naso ai loro compagni maschi. È il tramonto del potere maschile. Ma parleremo anche di arte contemporanea, di arte nazionale e arte globale e di altri temi che ora ci anticipa il nostro sommario. Germania. Le mostre globalizzate sono la rovina della cultura occidentale. Argentina. Trasformare gli immigrati in opere d'arte è l'idea di un gruppo di artisti argentini. Visti dagli altri. Spagna. Gino Paoli festeggia 50 anni di carriera con un nuovo album. America. Speriamo che sia femmina. La riscossa delle donne comincia dalle provette. Inghilterra. Un nuovo movimento punk si sta diffondendo tra i giovani musulmani. Siamo stati giù alla Galleria Costella a vedere la mostra fotografica. Incredibile, davvero. Davvero incredibile. Lei davvero trova? Ci sono delle foto qua sotto, sì, qua che sotto. Le assicuro, belle, veramente belle. No, io le ho trovate molto derivative. Per me sono reminiscenti, sono Diana Arbus ma senza averne l'afflato. Sa, oddio, non è che ci siano piaciute come la scultura di plexiglass, questo lo confesso. Ah, le è piaciuto il plexiglass? Perché non le è piaciuto neanche il plexiglass? Oh, è interessante. No, certo, sempre meglio di quel cubo d'acciaio. Lo ha visto era il cubo d'acciaio? No, quello era valido per me, assolutamente valido. Valido il cubo d'acciaio? Per me era, ecco, era molto, molto orbiturale, capisci? Sì, era perfettamente integrata, aveva una meravigliosa sorta di capacità negativa. Il resto delle cose giù erano stronzate. Erano Woody Allen e Diane Keaton in una scena del film Manhattan, una spassosa parodia di quelle che possono essere le reazioni del pubblico colto o che si pretende tale, insomma, davanti a una mostra di arte contemporanea. E proprio di arte contemporanea parleremo in questa prima parte della nostra trasmissione con un ospite che salutiamo, al quale diamo il benvenuto, Francesco Bonami. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere alla finestra sul cortile. Francesco Bonami, critico d'arte, è stato curatore della Biennale di Venezia nel 2003 e attualmente è curatore della Whitney Biennial of American Art, che si terrà a New York proprio quest'anno, ed è anche direttore artistico della Fondazione Sandretto Rebaudengo. Ecco, ma con Bonami vorremmo parlare di una polemica che è nata da un articolo comparso sulla Neue Zürcher Zeitung del critico svizzero Jean-Christophe Hamann. Ecco, confessa tutta la sua idiosincrasia per quelle esposizioni artistiche che vanno molto di moda di questi tempi, che hanno un respiro globale, no? Mostre concettuali, e dice Hamann, di cui lui ne ha fin sopra i capelli. Secondo lui non è vero che l'arte sia universale e funzioni quindi senza problemi a ogni latitudine, in ogni contesto. E dice, per esempio, una buona parte della cultura europea non possiamo mostrarla al di fuori dell'Europa. E poi dice, sempre più spesso gli artisti diventano dei meri illustratori delle fantasie pedagogiche dei curatori, e qui fa nomi e cognomi, è quello di un suo collega, Occhi Envesor, che è un nigeriano naturalizzato americano che è stato curatore a Kassel, a Johannesburg, in South Korea, a Siviglia, insomma è uno, diciamo, un globetrotter, no, dell'arte. È stato un po' l'Obama del mondo curatoriale. Così possiamo definirlo. Ecco, sì, ha sdoganato un po' il curatore africano, è stato il primo curatore africano dalla mostra Documenta a Kassel, e quindi insomma è stato, ha un po' sdoganato appunto quello che era tutta l'arte globale. Ecco, ma i suoi indici di popolarità stanno cadendo come quelli di Obama oppure? Beh sì, certo, le mostre globali sono un po' dei safari. Io non sono completamente d'accordo con anche Sofa Mann, perché non è che possiamo fare, insomma, l'arte è una cosa un po' come le bombe atomiche, non è che soltanto pochi, se solo non ce l'ha nessuno, oppure non è giusto dire sì, tu l'hai e la tieni, te non ce la puoi avere perché sei cattivo. E quindi il mondo si apre, ci sono tanti contesti dove la gente vuole vedere l'arte, vuole vedere principalmente quella europea. Sono d'accordo con Amman che in effetti questa moda della globalizzazione ha portato a delle deformazioni, ad illudersi che il mondo non abbia storia, e invece il mondo, brutto o bella che sia, ha una storia, la storia dell'illuminismo, la storia del Rinascimento, la storia di tante storie economiche e politiche che hanno anche influenzato continenti e paesi. Ecco, appunto, queste transnational global form, come lui stesso, come Envesor le ha definite, no, in un suo libro, tendono un po' a confondere le acque, a mettere tutto in un calderone. Ma va bene che l'arte globale può non piacere, ma esiste ancora un'arte nazionale? Certo, ci sono alcuni artisti, non so, contemporanei, adesso mi viene in mente, faccio per dire, un pittore come Alex Katz non può essere che americano, uno scultore come Balkenhol non può essere che tedesco, perché scolpisce come gli intagliatori del Medioevo, sì, no? Oppure abbiamo un artista come William Kentridge che non può essere che sudafricano, o un artista, certo, come Shirin Neshat, che pur stando esatto, non può essere che iraniana. Sono inconfondibili, proprio. Sono inconfondibili. A volte, ecco, diciamo che ci sono degli elementi che definiamo globale, quello che invece un tempo si definiva folcloristico. Però Shirin Neshat è un artista, una filmmaker molto brava, che però appunto la sua cifra è quella proprio della cultura iraniana. Certo. Lei è venuta fuori appunto all'inizio, alla fine degli anni 90, quando appunto questa nuova moda delle mostre globali stava entrando in vigore. Ecco, ma lei come curatore si sente messo sotto accusa da questo attacco di Amman, che lui dice l'arte non deve essere domabile dai curatori, dice essa è poesia, in quanto tale possiede la capacità di mostrare all'improvviso quello che abbiamo dentro di noi, invece il curatore tende un po' a fare violenza. Diciamo, no? Che questo, sì, io con Amman non mi sento sotto accusa. Amman porta un problema e un'accusa non del tutto non vere. Lui è un curatore di un'altra generazione, quindi quando il mondo era molto più piccolo, c'erano gli artisti tedeschi, gli artisti italiani, gli artisti americani e gli svizzeri. Era anche più facile ai suoi tempi. Forse. Diciamo era più facile, questo è il suo modo, il suo modo di lavorare. Oggi noi curatori sì, abbiamo un po' il vizio di tentare di creare con gli artisti delle tesi quasi di diplomazia politica. E a volte spesso vengono fuori delle mostre che sono più dei libri che delle mostre. In quello Amman ha ragione, l'arte è poesia, l'arte è un'esperienza diretta che non può essere soltanto illustrazione o nota a piè pagine di una idea o di un testo di un curatore. Ecco, ma parliamo dell'arte contemporanea, riesce ancora a scandalizzare, a emozionare? Non sono spesso invece dei gratuiti esibizionismi dell'ego di certi artisti? Pensiamo a Milano, in questi giorni c'è la polemica per il dito di Cattelan. Sì, io credo che l'arte, quando ci sono le provocazioni che scuotono e marcano la storia dell'arte, e che sono utili e servono anche quelle, e da queste provocazioni nascono spesso grandi artisti. I grandi artisti non devono necessariamente provocare, i grandi artisti fanno quello che sanno fare, e a volte quello che sanno fare è una provocazione. A volte però si confonde, si pensa che la provocazione, questo è un difetto che a volte che Castellan ha, a volte lui fa delle grandi opere e a volte fa delle grandi provocazioni, a volte fa delle grandi opere che sono provocazioni. Non basta provocare per fare dell'arte, ecco, questa è la sostanza. Non basta provocare, a volte lui fa delle provocazioni che non sono arte. Ecco, noi ringraziamo Francesco Bonami, buona domenica e buon lavoro, a presto. Grazie mille. E ci spostiamo in Argentina e sempre a proposito di arte contemporanea si parla sulla rivista Enie di un gruppo di artisti argentini che ha creato una curiosa installazione attualmente esposta al Museo Storico di Budapest. Si chiama la Balliena Valiena, che rappresenta una di quelle imbarcazioni che trasportano i clandestini, sans-papiers, gli immigrati indesiderati del mondo. E questa gran barco baliena contiene proprio delle persone che vengono esposte come se fossero un'opera d'arte. Forse preferirebbero trovare una casa o un lavoro che finire in un museo. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Madrid, dove Gino Paoli, il nostro grande chansonnier, viene intervistato dal País, da Carles Gámez, in occasione dell'uscita in Spagna del suo nuovo album Storie, con il quale ha celebrato i suoi 50 anni di carriera. Nell'intervista Gino Paoli parla delle sue radici musicali, il jazz, la canzone francese, la canzone popolare italiana, e delle sue radici sentimentali e etniche, geografiche. Dice: io mi considero un uomo del Mediterraneo, sono nato e vissuto con i piedi nell'acqua. E anche noi italiani ci sentiamo spesso come Gino Paoli, con i piedi nell'acqua, ogni tanto anche con l'acqua alla cintola se non alla gola, e con il sapore di sale sulle labbra. La finestra sul cortile. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura. Se una femmina si chiamerà Futura, cantava Lucio Dalla in questa bellissima canzone che tutti ricordiamo, e speriamo che sia femmina, è il tema di un lungo articolo di Hannah Rosin sul mensile americano The Atlantic, che è intitolato The End of Men, la fine degli uomini, un titolo che a tutti noi maschi fa venire la pelle d'oca, ovviamente. Ma a che si riferisce? Si riferisce al fatto che la maggioranza della forza lavoro negli Stati Uniti, proprio alcuni mesi fa, è passata alle donne, quindi le quote rosa stanno diventando preponderanti in America, ma non solo, anche nelle posizioni guida in molte corporation, nei college, nelle statistiche dei laureati, sono le donne a guidare la corsa verso il sapere, la conoscenza, e quindi in qualche maniera si sta realizzando quel sogno di parità, di pari opportunità, che sembrava fino a poco tempo fa un miraggio per il quale lottavano i movimenti femministi di liberazione della donna. Ma è interessante questo articolo di Hannah Rosin, anche perché inizia proprio con un personaggio, un biologo, Ronald Erickson, che negli anni 70 aveva inventato un sistema per separare lo sperma che portatore del cromosoma Y che produce appunto i maschi da quello invece portatore della X, e la sua idea era che con questa tecnologia si sarebbe naturalmente incentivato la nascita di figli maschi, che è sempre quello che tutti nei secoli i genitori desideravano, perché sembrava quasi che investire in una femmina fosse un cattivo investimento, sia per la nascitura sia per la famiglia, i genitori, che non avrebbero avuto delle braccia per coltivare i campi, per mandare avanti magari l'azienda di famiglia. E invece cosa succede? Succede che la tecnologia inventata dal dottor Erickson viene usata alla rovescia, e i genitori americani che ricorrono alla fecondazione assistita in prevalenza, e soprattutto le donne che sono quelle che fanno la scelta, le future madri, preferiscono il cromosoma X e quindi nascono più bambine. Ma perché questa preferenza per le bambine? Spiega questo articolo del mensile Atlantic. La ragione è che l'economia sta cambiando e un'economia ormai basata più sul pensiero e sulla comunicazione, sulla conoscenza, richiede delle doti che sono più diffuse tra le donne. Queste doti contano più della forza fisica, della resistenza, che erano caratteristiche della età industriale. E ci sono delle statistiche dell'OCSE che dimostrano che laddove è più forte il potere delle donne, l'economia ha maggiore successo. Ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite che abbiamo al telefono, Irene Tinagli. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta alla Finestra sul Cortile, grazie di essere qui con noi questa mattina. Professoressa Tinagli, che la conosciamo come un'economista italiana che è uno dei tanti cervelli da esportazione, perché insegna all'Università di Madrid Carlos III. Ma tempo fa noi abbiamo visto una copertina dell'Economist che parlava di gendercide, di una guerra globale contro le bambine, di un uso selettivo dell'aborto nei paesi in via di sviluppo, per cui si calcolava addirittura 100 milioni di missing girls nei paesi asiatici. Qui invece abbiamo uno scenario completamente diverso. Ma allora è solo nei paesi sviluppati che questa preferenza per i nascituri di sesso femminile si registra così fortemente? Beh, intanto credo che i due dati a due fenomeni anche temporalmente un po' diversi. Il femminicidio, diciamo il bambinecidio dei paesi asiatici si riferisce a un fenomeno che ha effetti di un fenomeno che era in corso molti anni fa, da quando la Cina ha iniziato a introdurre delle limitazioni per cui le famiglie non potevano avere più di un bambino, ed essendo tra l'altro la Cina un paese comunque ancora prevalentemente agricolo, rurale, certo. È agricolo, quindi succedeva, e quindi oggi diciamo tra i ventenni ci sono più maschi che femmine, quindi. E questo è un problema nei paesi asiatici molto grosso. Invece il fenomeno di cui parlava l'articolo sull'Atlantic è più recente e comunque si riflette in un'economia che è diversa, perché gli Stati Uniti, il Canada, i paesi occidentali chiaramente sono paesi che ormai già da tempo sono transitati in un'economia, come si dice, post-industriale, quindi dominata più dai servizi, quindi il settore manifatturiero chiaramente ha un peso sempre minore. Quindi questo ha reso anche da un punto di vista economico l'essere donne meno penalizzante. Parliamo invece dell'Italia, parliamo del nostro caso. Anche da noi gli effetti, per esempio, della crisi, della recessione dell'anno scorso ha colpito più pesantemente la forza lavoro maschile? Guardi, sui dati, gli ultimi dati che anch'io recentemente avevo guardato dell'Eurostat, mi hanno fatto vedere che è verissimo che, come diceva lei, negli Stati Uniti la disoccupazione ha colpito più gli uomini che le donne, per esempio, e questo è successo anche in molti altri paesi europei, quindi specialmente quelli del Nord Europa, per esempio, quindi la disoccupazione maschile è superiore a quella femminile, quindi l'occupazione femminile ha retto meglio, e invece invece in Italia questo non si è visto, le donne sono ancora un pochino più penalizzate e resta da vedere, da capire se questo è legato a una nostra struttura produttiva che è ancora abbastanza sbilanciata sul manifatturiero, quindi in parte questa può essere una spiegazione, ma un'altra possibile spiegazione è che ancora forse da noi, anche sul posto di lavoro, anche nei settori meno comunque pesanti, le donne forse sono quelle che rinunciano prima loro stesse o gli stessi datori di lavoro. Da noi c'è ancora per esempio una certa discriminazione, per esempio nei confronti delle donne quando sono in età di gravidanza, ci sono ancora, anche se magari non vengono denunciate, però casi di datori di lavoro che si informano, si documentano se la donna ha già avuto bambini, se sta per avere bambini, perché si ha paura dell'impatto che la maternità ha sui costi dell'impresa. Certo, quindi insomma l'America è ancora lontana per noi, ma intanto noi ci auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori, una volta si diceva congratulazioni e figli maschi, auguriamo a tutti figlie femmine a questo punto, e tanti, e tanti auguri e buona domenica a Irene Tinagli e auguri per il suo lavoro. Grazie. A presto. E ci spostiamo in Inghilterra, sulle colonne del Times troviamo un articolo di Stephen Dalton che ci presenta un movimento nuovo, un movimento punk che si chiama Taqwa Core ed è un punk islamico che ha sempre maggiore successo tra i giovani musulmani immigrati. Il titolo infatti è Never Mind the Burqas, non preoccupatevi del burqa, sono arrivati i punk islamici e tra questi ci sono in particolare il gruppo dei Cominas. Pare che tra questi ragazzi, sia pure vestiti in fogge piuttosto bizzarre e piuttosto anticonformiste, molti sono religiosissimi e frequentano la moschea. Insomma, distruggono gli stereotipi, strappano i burqa ma senza rinnegare la loro fede. Forse il fondamentalismo si può battere anche cantando e suonando. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it.